strada, un fiore di serra quando passerà. Per il freddo di un inverno mi fermo un attimo, aspetto il prossimo segno del cielo che possa aiutarmi a capire dove che andremo a finire, dove che andremo a finire io e te. Capire o spiegare a parole, se ci penso non so bene se voglio andarmene e lasciare che tu sia solo un mio ricordo. Come un gioco di specchi vedo solo riflessi di te, di te, di te, di te, dentro il grido del silenzio. Ogni cosa perdi il senso, come un grande sogno senza fantasia, come un vero amore quando è gelosia. Ed il resto è andato perso, mi fermo un attimo, aspetto il prossimo segno del cielo che possa aiutarmi a capire dove che andremo a finire io e te, io e te, io e te. Siamo un mondo che non so capire o spiegare a parole. Se ci penso non so bene se voglio andarmene e lasciare che tu sia solo un mio ricordo. Come un gioco di specchi vedo solo riflessi. Il tempo vola per chi sta aspettando qualcuno, qualcosa che non tornerà, non lo so ancora. Dov'è che andremo a finire io e te, io e te, io e te. Siamo un mondo che non so capire o spiegare a parole. Se ci penso non so bene se voglio andarmene e lasciare che tu sia solo un mio ricordo. Come un gioco di specchi vedo solo riflessi di te, di te, di te, di te. Pra mim é importante sentir vocês felizes, mesmo que a gente fisicamente não possa estar perto. Às vezes, quando a gente está mais longe, a gente está mais perto. E o importante é que quando a gente estiver perto, a gente esteja perto mesmo. Conectadas. Te amo.